Ruote e dintorni di Roberto Rasia. Un'altra puntata ricchissima, amici dei motori, buonasera, bentornati a Quattro Ruote e Dintorni, Roberto Rasia al microfono, la Valeria in regia vi farà ascoltare tutte le voci degli ospiti che ci faranno compagnia durante questa mezz'ora, come succede poi lo sapete ormai da anni, è il sabato dalle 21 alle 21.30 insieme agli amici di Quattro Ruote. Quattro Ruote e Due Ruote, la testata di Edidomus dedicata ai motociclisti, oggi proprio con anticipazioni importantissime perché il 4 novembre si apre fino al 9, i primi due giorni in realtà sono dedicati alla stampa, il 66esimo Salone del Ciclo e Motociclo di Milano, ci farà compagnia Fabio Cormio. Poi passeremo ai costi eccessivi dei tagliandi, un'inchiesta molto interessante di Cosimo Muriani, il collega lo sentiremo anche dal vivo questa sera, e poi Carfax Europe, una società che si occupa di importazione di auto dagli Stati Uniti, o meglio di informazioni sulle auto che vengono importate, e chiuderemo con Parcheggiamo l'indifferenza, un bello slogan a sfondo benefico, tra l'altro il 15 e 16 novembre protagonista di ben 8 o 9 parcheggi nel nord Italia di Park to Fly. Questo è il programma, direi ricchissimo, iniziamo alla grande allora dalla redazione di Due Ruote, Fabio Cormio, buonasera Fabio. Buonasera Roberto, buonasera a tutti gli ascoltatori. Noi parliamo spesso di mercato dell'auto, Fabio sta soffrendo tantissimo il mercato dell'auto, si apre invece adesso il 66esimo Salone del Ciclo e Motociclo, noi ci rivolgiamo a quest'ultimo settore, ci racconti prima che inizi il salone come sta andando invece il settore? Beh, il settore non sta andando male, assolutamente, insomma c'è stato qualche mese di flessione, ma rispetto al mercato dell'automobile non ci sono assolutamente quei venti di crisi. Molto bene, queste già sono buone notizie, perché se fosse invece la situazione simile a quella delle auto ci sarebbe poco da sorridere. Bisogna capire intanto che salone sarà questo che ci aspetta inizio novembre a Milano, la nuova fiera, vi ricordo, a Ro Opero, che dir si voglia, raggiungibile con la metropolitana rossa dal centro di Milano fino alla fiera e poi una bella scarpinata fin dentro. Fabio. Ma rispetto a qualche anno fa è chiaro che non ci può più essere quel bombardamento assoluto di novità, perché? Semplicemente perché si è chiuso il Salone di Colonia soltanto poche settimane fa, quindi molte delle novità del 2009 si sono già viste, tuttavia c'è ancora qualcosa da vedere e comunque tutti quelli che non sono potuti andare a Colonia potranno vedere le novità dei giapponesi, per esempio. Ecco, parliamo dei giapponesi, allora quattro cilindri e non, io ho avuto un'anticipazione un po' speciale al Salone Nautico di Genova, un V-Max, se non sbaglio, della Yamaha inedito, che cos'altro? Sì, beh, del V-Max si è detto, è fantastica, 200 cavalli, eccetera, veramente una moto tecnologica, una bandiera tecnologica della Yamaha, ma c'è tanto altro, c'è ad esempio la Suzuki GSX-R 1000, ancora più potente, 5 kg in meno, sempre nel rispetto della tradizione dei giapponesi, moto estrema, bilanciata. Che già è piaciuta tantissimo, nel nostro paese ci sono molte GSX-R 1000 in giro, ha una linea davvero eccezionale. Questa è Suzuki, poi che cos'altro? Sì, sempre di Suzuki, secondo me merita di essere nominata anche la Gladius, una nuova 650 che va finalmente a sostituire l'SV, che insomma era piuttosto datata, una moto pratica ma anche bella da vedere, c'è qualche richiamo con delle moto italiane, verrebbe da dire la Brutale, naturalmente con tutto il rispetto del caso, vista la differenza di prezzi e prestazioni. Tra gli altri ci sono Honda che presenta la CBR, quindi la 600 e la 1000 dotate di un ABS, per così dire, da corsa, comunque con una soglia di intervento spostata molto, molto in avanti, ma già adesso la BS Honda funziona benissimo, quindi abbiamo soltanto molta voglia di provarla in pista. Comunque un nostro tester già la provò alla prima presentazione di un prototipo con ottimi risultati. Arriva anche la Kawasaki Ninja 600, il nostro Andrea Padovani andrà proprio nei prossimi giorni a provarla in Giappone, e ci si attendono prestazioni migliorate, ma soprattutto delle forme e dei volumi molto più compatti rispetto al passato. Decisamente, tutte novità per chi non si intendesse troppo di moto, che vanno a rimpinzare un segmento già ricchissimo e su cui si combattono battaglie feroci a livello di numeri, di marketing, ma anche di comunicazione. Ormai anche le case costruttrici di moto hanno imparato, come quelle di auto, a comunicare molto. C'è tempo per un'ultima novità, magari targata italiana, mi viene in mente Ducati, se propone qualcosa al gruppo Piaggio. Sì, se mi permetti di dirne due, allora sicuramente Ducati, da Ducati stiamo aspettando una Street Fighter, cioè una nuda su base 1098 che dovrebbe in qualche maniera sostituire, andare a colmare il buco lasciato un po' dall'Aprilia Tuono, una moto quindi che non sarà una Monster ma sarà una moto tutta nuova e potentissima. Chiudiamo con la BMW, voglio segnalare la F800R, la nuova nuda col motore bicilindrico 800. Molto bene, grazie, questa è la voce di Fabio Cormio da Due Ruote. Fabione, grazie e alla prossima anticipazione, anzi al prossimo commento del Salone. Grazie e buona serata. Grazie a te Roberto. Allora adesso passiamo alle quattro ruote, o meglio ai costi delle quattro ruote, in un periodo in cui i costi sono sulle prime pagine di tutti i giornali. Quattro ruote si è inventato una inchiesta dedicata ai costi eccessivi dei tagliandi, spesso molto diversi da concessionario a concessionario. L'ha fatto Cosimo Muriani, buonasera Cosimo. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio 24. E bentornato, grazie della tua disponibilità. Grazie a voi. Senti, un paio di minuti per conoscere la tua inchiesta. 250 telefonate a chi? Abbiamo telefonato a 250 concessionari e officine autorizzate in tutta Italia, grandi città, città medie e piccoli centri di provincia, chiedendo il costo orario della manodopera. E poi il dato lo abbiamo confrontato con quello che ci hanno comunicato le case automobilistiche di 10 modelli selezionati, e così poi è venuto su un confronto che ha dipinto un'Italia un po' particolare. Ecco, un po' particolare immagino per costi diversi, costi che si distaccano poi da una parte all'altra, forse da una regione all'altra. Li conosceremo fra pochissimo, perché adesso facciamo una piccola pausa e torniamo per commentare questa inchiesta di quattro ruote sui costi eccessivi dei tagliandi. Quattro ruote e dintorni. Stiamo parlando con Cosimo Muriani di Quattro Ruote, dei costi eccessivi dei tagliandi, 250 concessionari contattati e questi sono i risultati. A te la parola, Cosimo. Sì, innanzitutto ci terrei a dire che questa inchiesta nasce su input dei nostri lettori che ci continuano a scrivere sostenendo insomma che il costo dei tagliandi è ormai arrivato a livelli insostenibili, ecco. E quindi noi abbiamo voluto vederci chiaro e abbiamo telefonato a tutti oltre 250 concessionarie e officine autorizzate nelle grandi città e nei piccoli centri di provincia, chiedendo il costo della manodopera e scoprendo che abbiamo delle punte addirittura di 94,80 euro in una concessionaria Citroen di Roma, quindi non stiamo parlando di una concessionaria Ferrari, ecco, di un marchio popolare. E invece all'estremo opposto abbiamo trovato una tariffa oraria di 20,40 euro in una officina autorizzata Fiat in provincia di Benevento. In mezzo a questi due estremi c'è un costo tutto sommato accettabile che abbiamo riscontrato di 40 euro, parliamo sempre IVA compresa. Sì, scusami Cosimo, com'è possibile, come voi vi spiegate queste differenze abbastanza clamorose? Nelle grandi città la differenza la si spiega con il fatto di avere delle strutture grandi che quindi necessitano di personale e quindi anche di strutture, per cui la tariffa oraria è data anche dalle dimensioni della concessionaria, dell'azienda. La casa costruttrice dà un'indicazione al concessionario o quest'ultimo è libero di fare le tariffe che vuole? Ci sono delle indicazioni generiche, ma poi alla fine il concessionario è libero di applicare la tariffa che ritiene più opportuno. La cosa curiosa è che questo concessionario di Citroen di Roma addirittura sul suo sito propone di effettuare la manutenzione pagandola a rate, quindi sì. Lui offre addirittura un finanziamento per fare i tagliandi. Sul costo dei tagliandi, incredibile. Sì. Ormai i finanziamenti sono davvero ovunque, complicano spesso la vita a chi ha un reddito fisso e a cui deve stare molto molto attento. Noi rimandiamo a quattro ruote, naturalmente, per la conoscenza più approfondita e maggiore su tutti i numeri di questa bella inchiesta, per la quale ringraziamo Cosimo Muriani. Grazie di cuore Cosimo, a presto e buon lavoro. Arrivederci, un saluto ancora a tutti gli ascoltatori. Grazie a Cosimo Muriani di Quattro Ruote, e c'è una segnalazione da fare. Pensate che gli amici di Quattro Ruote hanno anche in investigato e hanno scoperto che molte persone in vacanza approfittano della loro perifericità per portare l'auto proprio nei concessionari locali al posto di quelli in città. Il perché è facile detto, perché costa meno il tagliando in periferia piuttosto che in città. È incredibile, leggetevi l'inchiesta che è davvero simpatica. C'è un nuovo trend ultimamente, quello di comprarsi online spesso, ma non solo, anche via telefono, l'auto negli Stati Uniti, farla importare in Germania e in qualche modo passarla poi in Italia cambiando le targhe dopo un paio di settimane. Non è ben chiaro, ci stiamo lavorando per capire meglio e farvi capire come questo possa essere regolamentato e se tutto sia lecito, però iniziamo dal fondo, cioè da chi fornisce servizi sull'auto che viene importata. Si chiama Carfax Europe, ci fa compagnia Country Manager per l'Italia Marco Arban, che è qui accanto a me. Allora Marco, intanto buonasera. Buonasera a tutti. Chi è Carfax e che cosa fa? Spiegato a persone che solitamente sentono parlare di motori, di sterzi, di pneumatici e di qualche servizio. Carfax Europe è una società che attraverso il proprio sito offre all'utente che è interessato ad acquistare un'auto usata un report con la storia del veicolo. Quindi questo report si presenta sotto forma di un curriculum e la ricerca del veicolo avviene attraverso il VIN, che non è altro che il numero di telaio. Quindi in qualche modo voi fornite tutte le informazioni necessarie all'automobilista che per fatti suoi si compra l'autovettura negli Stati Uniti, però vuole magari sapere a chi è appartenuta, se è stata rubata, addirittura se è stata incidentata? Certamente sì. Infatti le informazioni che si trovano nel report sono molto varie e possono essere relative anche al numero e al tipo di proprietari precedenti, quindi al chilometraggio dell'auto, all'eventuale presenza di incidenti e se anche l'auto è stata colpita da alluvioni o uragani, che sono fenomeni relativamente frequenti negli Stati Uniti. Eh sì, molto di più che da noi, per esempio, perché potrebbe succedere che qualcuno approfitti di questo nuovo trend, di questa nuova moda di importare autovetture direttamente dagli Stati Uniti senza evidentemente averle visionate di persona, perché il solo fatto di andare e tornare andrebbe a colmare quel vantaggio spesso economico che c'è nel comprarle laggiù. Poi che cos'altro fa Carfax? Sì, sicuramente si può considerare che uno dei vantaggi maggiori del prodotto è che attraverso il nostro sito, il www.usimprocheck.com, e si può ottenere la storia del veicolo e quindi in un certo senso può essere considerato come uno strumento per la tutela del consumatore. Quindi l'informazione, il fornire informazioni relative alla storia del veicolo anche può aumentare la sicurezza stradale, nel senso che conoscere se un'auto ha avuto un incidente che può averne pregiudicato la sicurezza, questo sicuramente può solo che aumentare la sicurezza stradale. Questo per dire non solo per il vantaggio personale e soggettivo di chi compra, ma anche per la collettività. Evidentemente è molto meglio guidare un'auto non incidentata che incidentata. Abbiamo detto il nome di un sito, lo ripetiamo piano in modo tale che si possa capire. Certo, è www.usimprocheck.com. usimportcheck.com, su cui poi ci sono in aggiunta un Carfax semplice da trovare sul web tutte le informazioni. Allora, questo è un assaggio di un'inchiesta che noi faremo più avanti, durante la quale siete già invitati, però abbiamo voluto buttar lì così qualche informazione per cercare di capire meglio come funzioni l'importazione di veicoli all'interno del nostro paese, non del tutto regolamentata, perché ci sono tante voci in giro, molti ascoltatori mi stanno scrivendo, vorrei dare risposte certe, ce ne stiamo occupando nel giro di 2-3 settimane, lo faremo anche grazie a Carfax e magari a qualche vostro amico tedesco che importa le auto. Grazie per ora a Marco Arban e a presto. Grazie a tutti. Salutati gli amici di Carfax, adesso ci occupiamo di un ultimo argomento prima di salutarci questa sera. Vi chiedo la massima attenzione perché ha anche un risvolto benefico davvero nobile. Noi ascolteremo adesso la voce del fondatore e presidente di un'associazione, si chiama Canguro Onlus Flights Aid, si chiama Alessandro Modia Rore, e presidente, buonasera. Buonasera. Dunque, c'è un'iniziativa particolare che riguarda il 15 e 16 novembre, un weekend durante il quale un'iniziativa che ha un nome molto particolare, l'ho ricordato prima in apertura, Parcheggiamo l'indifferenza, sarà al centro dell'attenzione di 8-9 parcheggi distribuiti soprattutto nel nord Italia e poi a Roma. I parcheggi aderiscono diciamo a Park to Fly, che spesso è stato nostro ospite. Prima di spiegare questa bella iniziativa, Presidente, le chiedo però, per farci conoscere la sua associazione, una presentazione di quello che fate. Sì, noi come Canguro Onlus Flights Aid è ormai dal 1999 che organizziamo voli umanitari, siamo stati in varie parti del mondo, diciamo, afflitte da vari problemi, e tra cui il Kosovo, dove abbiamo iniziato, Kenya, e in Sud America, e siamo stati l'ultima volta in Repubblica Dominicana, che era stata colpita appunto dall'uragano Noel. Adesso stiamo lavorando alla realizzazione del primo aereo ospedale europeo. Ne approfitto per chiederle che cos'è il primo ospedale aereo, Presidente. E noi, sulla base di un Fokker 27, andremo ad installare due sale operatorie per le malattie degli occhi, e ci sarà anche un'altra piccola saletta con una poltrona odontoiatrica. In questo modo riusciremo ad arrivare nei paesi in via di sviluppo con tecnologia all'avanguardia, cercando di portare il maggior conforto possibile a quelle popolazioni. Fantastico, anche l'idea è veramente geniale. Detto questo, allora ci vuole spiegare che cosa accadrà per gli amici che invece si occupano, come noi, di motori il 15 e 16 novembre? Diciamo che l'abbinamento con Part to Fly è nato, diciamo, da una nostra primissima necessità, quella che quando organizziamo le nostre missioni ci troviamo proprio a livello pratico a lasciare le nostre macchine nei parcheggi di Part to Fly. E questa società sono ormai quasi un anno che ci supporta, e donandoci il parcheggio gratuito per tutti i membri della nostra associazione che vanno nelle varie missioni. Questo rapporto si sta stringendo sempre di più, e adesso appunto, dietro, diciamo, la disponibilità del dottor Catenazzi, direttore di Part to Fly, ci è stato proposto queste due giornate di solidarietà, sì, il 15 e il 16 di novembre, dove verrà donato un euro per ogni parcheggio effettuato presso i parcheggi della Park to Fly. Ne approfitto per ricordare il sito parktofly.it per capire dove siano questi parcheggi, perché ce n'è a Torino, a Milano, per esempio Linate e Malpensa, ancora a Bergamo, a Bologna e a Roma, quindi quello è l'indirizzo corretto. Ci faccia capire bene una cosa, Presidente: ogni veicolo che sarà parcheggiato in quei due giorni farà destinare da parte di Park to Fly un euro a voi come associazione. Esattamente, e servirà per finanziare la realizzazione dell'aereo ospedale di cui abbiamo parlato precedentemente. Appuntamento quindi al 15 e 16 novembre. Le chiedo, prima di salutarci, Presidente, se questo sarà l'ultimo o l'unico appuntamento per quanto riguarda la vostra associazione Kangaroo Onlus Flights Aid. Con Park to Fly stiamo pensando di realizzare un secondo weekend nel mese di dicembre, e si sta mettendo in piedi un altro progetto, che è quello di realizzare delle magliette che verranno distribuite presso i parcheggi di Park to Fly, e il ricavato anche di queste magliette, che inizierà a gennaio del 2009, servirà sempre per finanziare il nostro progetto molto ambizioso del primo aereo ospedale europeo. Molto bene, grazie davvero al professor Modi Arrore del Kangaroo Association Onlus Flights Aid. Grazie davvero, Presidente, a prestissimo. Grazie a voi e buon sabato sera a tutti. Grazie. Con la sua voce termina anche la nostra intervista e quindi la trasmissione, perché l'appuntamento è per sabato prossimo alle ore 21 puntuali, dopo il GR24. Però ricordatevi, da lunedì a venerdì, la nostra pillola di saggezza motoristica delle ore 23. Tutte le sere vi teniamo compagnia con due minuti riguardanti i nuovi prodotti del mercato auto e moto, e poi sul sito web www.radio24.it. Valeria Rimasta in regia, Roberto Rasia vi ha parlato, vi auguro soprattutto una buona guida.